Il gastronauta, l'Italia del cibo, di Davide Paolini. Buona domenica a tutti, cari gastronauti, cari radioascoltatori. Bene, magari molti di voi in questo momento stanno preparando la griglia o stanno preparando il barbecue, perché è una bella giornata e di questo appunto parleremo, anche perché in questi ultimi anni veramente questi due metodi di cottura, perché sono due metodi diversi, sono due cose diverse, poi nel corso della puntata ci faremo aggiornare dai nostri esperti per capire le differenze, anche le differenze di come cuocere, di come preparare. Poi ci sono anche altri strumenti che stanno venendo alla ribalta, tra cui uno molto particolare che si chiama Green Egg. Quindi diciamo che in America addirittura esiste la religione del barbecue, ma anche in Italia, dicevo, si sta sviluppando, soprattutto perché abbiamo avuto una trasmissione in televisione che si chiamava I Re della Griglia, e ne abbiamo un'altra sul Gambero Rosso che si chiama Serial Griller, giocando appunto sui termini con Matteo Tassi, il quale in questo momento sta facendo lezione e purtroppo non potrà intervenire con noi. Peccato. Bene, però io inizio da una cuoca che immagino, siccome ha fretta perché deve andare a cucinare, magari sta preparando la griglia. Buongiorno Maria Grazia Soncini, buongiorno. Buongiorno signor Paolini, buongiorno a tutti. Della capanna di Eraclio, di Codigoro. Sta sì. Preparando la brace? Maria, è già pronta perché la prepariamo un po' prima, perché sennò la vampa del camino è troppo intensa. Senta, e quindi abbiamo appena diciamo mosso e accumulato le braci. Senta Maria Grazia, ma quanto tempo ci vuole a preparare le braci? Diciamo un 20 minuti, mezz'ora prima, perché noi abbiamo un camino, un camino con una bocca grande, un camino che è quello ancora vecchio di una volta, e sul quale vengono messe delle fascine e poi sopra mettiamo il carbone, quindi le fascine, quei sarmenti di vite accendono subito e il carbone ci vuole una mezz'oretta, poi dopo riposa lì e continua a fare la brace. Ecco, il carbone è molto importante in questo tipo di cottura, bisogna selezionarlo. Sì, noi abbiamo dei carbonai bresciani che ce lo portano da sempre, ecco, devo dire, proprio da sempre ci portano questi sacchi di carbone con i pezzi di carbone, non è mai uguale a se stesso, però loro selezionano abbastanza bene. Senta, quindi avete, diciamo che il carbonaio deve essere di fiducia, perché non si può sbagliare col carbone. No, perché sì, esattamente, il carbonaio deve essere, sì, c'è sempre questo rapporto di fiducia con i fornitori, perché non si vogliono grane, nel senso che il carbone deve essere a pezzi grossi, non ci deve essere polvere, perché sennò diciamo va a inficiare proprio la brace, non si fa una brace bella viva con quella che serve, quindi serve qualcuno che conosca bene, certo, il lavoro e del quale fidarsi. Ecco, rimanga ancora qualche minuto con noi perché sentiamo Walter da Udine, un radioascoltatore. Buongiorno Walter. Ciao, buongiorno a voi. Prego. Buona domenica a tutti. Prego. Volevo sollevare una questione che molto spesso è stata dibattuta in maniera a volte impropria, a volte impropria. Gli allarmismi tutto sommato non sono mai amici dell'intelligenza. A volte si è parlato delle carni cotte alla brace come carni portatrici di idrocarburi, policiclici aromatici, di quelle sostanze che fanno male, gli IPA, no? I famosi IPA. Ecco, in realtà io mi sono costruito una griglia da solo. Perché? Perché il problema degli IPA effettivamente sussiste. Scusi, cioè, lei è un ristoratore oppure un privato? Io sono un privato. Okay. Che però qui comunque mi dedico anche alla cottura alla brace in casa. Sì. La riflessione nasce da questo. Ciò che genera queste sostanze tossiche è l'eccesso di temperatura. Allora molto spesso capita di vedere dei pezzi di carne o anche le verdure cotte alla brace con le righe nere del punto in cui il prodotto alimentare tocca il metallo. Il metallo è stato portato su molto di temperatura e si determinano poi questo tipo di alterazioni. La griglia che mi sono realizzato io è una griglia, chiamiamola così, opposta, cioè le bacchette di ferro sono sottilissime in maniera tale che non si scaldino eccessivamente. Quando io ho la brace molto calda ci appoggio la carne e la carne che risulta è assolutamente opposta rispetto alle carni tradizionali, cioè bene, il punto di contatto è assolutamente bianco proprio perché lì non ha ricevuto molto calore, mentre chiedo scusa, mentre lo spazio che rimane libero tra una bacchetta e l'altra, che riceve l'infrarosso, il calore all'infrarosso prodotto dalla, appunto dalla carbonella, lì si cuoce. Bene, grazie Walter delle sue indicazioni. Non so se lei vuol brevettare questa griglia. Comunque ricordo 800 24 00 24. Riprendo con Maria Grazia Soncini perché volevo arrivare al punto. Maria Grazia, lei sta preparando il fuoco per cuocere l'anguilla? Sì, sì, sì, è per cuocere l'anguilla. L'anguilla è la domenica, poi, che c'è una clientela che viene un po' da lontano, è molto gettonata l'anguilla. Noi cuciniamo l'anguilla sulla brace, un'anguilla di varie dimensioni, perché non la serviamo a pezzi, per cui è un po' più grande, va a servire più persone, e se è un po' più piccola per la porzione singola. Poi se cuciniamo anche altro pesce, le sogliole, i rombi e i soasi sulla griglia. Ecco, mi dicono che la sogliola è difficile da cuocersi perché, diciamo, è molto tenera. Sì, infatti, noi cuciniamo le sogliole queste di Goro, sono sogliole gentili con la pelle molto sottile. Lì bisogna modulare un po' il fuoco e avere una griglia rovente ma vissuta. Cioè, io parlo della tradizione, sentivo il signore prima, che il signore di Udine, io le parlo della tradizione. Le griglie dove cucinare il pesce devono essere vissute, nel senso che devono avere, cioè non deve essere una griglia di ferro vergine, sono griglie di ferro saldate manualmente, un po' con qualche gobbetta sui ferri, però deve essere una griglia che ha già cucinato tanto, come un po' come le padelle nere. E quindi la sogliola, modulando la brace, che è diversa, diciamo, se si cuoce l'anguilla, se si cuoce diciamo un altro pesce, modulando la brace sotto, ungendo leggermente il pesce, e poi non si attacca. Bene. Grazie, buon lavoro e buona domenica, Maria Grazia Soncini. Grazie a tutti, buona domenica e buon pranzo. La capanna di Eraclio di Codigoro, linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Riprendiamo a parlare di barbecue, di griglie. Abbiamo sentito appunto Maria Grazia Soncini che ci ha parlato dell'anguilla. Beh, l'anguilla è un pesce molto molto molto molto grasso, quindi va benissimo sulla griglia. Bisogna stare veramente attenti però con la sogliola. Ma continuiamo questo nostro viaggio e sentiamo Franco, un altro radioascoltatore della provincia di Sassari. Buongiorno Franco. Buongiorno. Prego. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Bene. Ascolti, io volevo un'informazione, nel senso che molti dicono che prima di cucinare la carne alla griglia bisogna mettergli il sale. E la seconda cosa, le anguille arrosto si fanno tagliate a pezzi e con, diciamo, all'oro, non so, rosmarino, oppure intere? Grazie. Beh, mi sembra che Maria Grazia Soncini abbia detto che mette sulla griglia delle anguille molto grandi, quindi sicuramente lei diciamo non le taglia, probabilmente si potrebbero anche tagliare, ma secondo me si cuoce peggio tagliando a pezzettini, poi bisogna recuperare l'uno o l'altro, vengono sicuramente anche delle cotture completamente diverse. Per quanto riguarda il sale, guardi, ora abbiamo tantissimi esperti, sia di carne che di pesce, e sentiamo. Ora andiamo a Polignano a Mare, in un ristorante molto noto di pesce. Buongiorno a Vito Mancini, del ristorante Tuccino. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno e buona domenica. Grazie. E Vito, volevo chiedere a lei, voi siete molto noti anche per le grigliate di pesce. Volevo chiedere quali pesci lei ritiene più adatto da essere così grigliato. Sì, naturalmente il sarago, orate, delle spigole, dei polipi, degli scampi, delle triglie, ecco, questi qua per quanto riguarda la cottura griglia sono eccezionali. Poi ci sono altri pesci naturalmente che si possono fare alla griglia, però non sono tanto indicati per quanto riguarda la griglia. Senta, grigliare il pesce io ho visto più volte, ho visto anche gente molto esperta, ho visto anche dei cuochi che si sono esibiti, però è molto difficile, cioè diciamo che bruciare il pesce nel senso di cuocerlo oltre è molto molto facile, bisogna stare attentissimi ogni istante sulla griglia. Sì, sì, naturalmente bisogna stare attenti e naturalmente c'è anche una tecnica per vedere se il pesce è già pronto per quanto riguarda la cottura, poi dipende dalla pezzatura e del peso, ecco. Ci dia il segreto, allora, per vedere. Il segreto, ogni pesce alla fronte, sulla spina centrale, c'è una spina molto più grande delle altre. quando quella viene fuori pulita, asciutta, vuol dire che il pesce è già cotto. Quindi questo è il segreto del mestiere. Rimanga con noi, Vito, perché ora sentiamo il segreto invece della carne. Buongiorno a Massimo Minutelli, la griglia di Varrone. Buongiorno Davide, di Milano, domenica. E di buona Luca. Domenica Davide. Buongiorno Massimo, io volevo chiederle innanzitutto questo. Si è parlato di sale prima, allora arriviamo alla carne. Sale prima o sale dopo? Ma io sale dopo, assolutamente sale dopo. Grosso, immagino. Certo. Ecco, certo. Quindi perché se andiamo a metterlo prima va a aprire i pori della carne e quindi la carne perde succosità. E la marinatura, se c'è marinatura, va fatta in che modo? Ecco, in che modo si può marinare la carne? Ma io non adoro tanto le marinature, preferisco utilizzare delle carni magari con delle carni più grasse, più idonee per la griglia, e proprio per sentire il gusto pulito e puro della carne, senza dover marinare le carni. Ecco, mi scrive. Sono le carni che utilizzo io. Bene, poi torniamo alle carni e torniamo anche alla griglia, ma voglio leggere un sms perché c'è qualcuno che ha preso il nostro appello. Oggi trote alla griglia di Castel Toblino. Bene, caro radioascoltatore, è una donna, quindi Carmen, buona cottura e buon appetito anche. Bene, voglio tornare a Mancini, voglio chiedere Mancini, la marinatura nel pesce è frequente oppure è meglio, diciamo, il pesce non marinarlo? No, il pesce, diciamo, quando il pesce è fresco non bisogna naturalmente toccarlo, più naturale è, diciamo, far sentire proprio il mare, naturalmente non marinarlo. Marinarlo noi lo usiamo solamente per quanto riguarda i carpacci, quando si spietta, lo usiamo un po' di marinatura, ma non, per quanto riguarda griglia niente, è naturale. E dopo la grigliata consiglia limone o d'altro o niente? Sì, un battuto di naturalmente di olio e limone da mettere, da aggiungere poi sopra, sì. 800 24 00 800 24 00 24. Ma torniamo a Minutelli. Io voglio sapere da Minutelli questo. Lei ha una griglia molto particolare, cioè bene in vista. È una griglia che credo sia di origine spagnola, è così, Minutelli? Assolutamente sì. Prima dell'apertura di Milano ho fatto diverse ricerche, ho girato in tantissimi ristoranti in Europa proprio per prendere la decisione giusta. E ho visto questi forni spagnoli, il Josper, ho visto il forno di Paolo Parisi, che ha diversità del Josper, che si sviluppa in maniera orizzontale. Il forno di Paolo, affascinato da quello, si sviluppa in maniera verticale con diversi gradi di cottura, e questo lo utilizzo come valore aggiunto nel mio ristorante di Milano. Poi, essendo stato così affascinato da questa griglia di Echebarri, di Victor, dove si può lavorare su diverse altezze, e la mia decisione è andata su quella. Ma io questo Echebarri, io ho mangiato da Echebarri, è un po' considerato il mito della cottura alla griglia. Ma cosa c'ha di particolare, diciamo, questa griglia che ha messo in piedi questo Echebarri che tutti stanno copiando? Ma cosa c'è di particolare? Ha questi volani che permettono alle griglie di utilizzare diverse altezze, e quindi in base alla tipologia di carne, che può essere più grassa, più magra, andiamo a giocare a mettere diversi legni a fiamma viva, in maniera diversa rispetto magari alle classiche cotture toscane che lavorano magari solo sulla brace, e questo ci permette di dare dei profumi di quercia, di ciliegio o di altri legni, e lo trovo molto divertente. Bene, Mancini, può darci, diciamo, un consiglio degli errori da evitare sulle grigliate di pesce, i più comuni? I più comuni sono i carboni ardenti, ecco, bisogna naturalmente far mostrare un po' il carboni, non metterlo subito, e poi mettere naturalmente qualsiasi pesce con le squame, non i crostacei, mettere un po' di sale prima di metterlo sulla griglia. Ma è possibile che uno degli errori più comuni che commette, diciamo, la gente comune, quindi non un ristoratore, non un esperto, è di bucherellare e strapazzare, schiacciare un po' quello che si sta cuocendo? Beh, è possibile, che lo faccio. Sì. Naturalmente non bisogna, ecco, il pesce una volta sviscerato e messo sulla griglia non bisogna tanto strapazzarlo, bisogna metterlo così intatto, come senza toccarlo tanto. Minutelli, si può bucherellare la carne o è meglio di no? Assolutamente no, perdiamo la succosità della carne. Ecco. Cioè, il segreto è proprio che si chiudono le parti esterne e che rimanga la succosità interna. Ecco, chiedo anche a lei, quali sono gli errori più comuni che si commettono cuocendo la carne? Errori più comuni? Non capire il tipo di carne che andiamo a cucinare. Cioè, dobbiamo riconoscere una carne più grassa o più magra. In base a questo prendere decisioni sulle altezze e sui tempi di cottura. Ecco, lei usa, diciamo, carni un po' che arrivano da tutto il mondo, oltre a quella italiana. Usa carne giapponese, australiana, americana. Qual è la carne che più di ogni altro si adatta alla griglia? Questo, secondo me, naturalmente. Certo, essendo la carne australiana, la carne americana, delle carni più grasse rispetto magari alla nostra fazione piemontese, e sì, si predispongono meglio in una cottura così ad alta temperatura sulla griglia. Ma quindi perché mantiene più tenerezza, questo sì. Mentre la carne giapponese è talmente delicata che la griglia può essere troppo aggressiva. Infatti la cuociamo su una piastra con un minimo di cottura e basta. Ecco, ma la carne di maiale è adatta alla griglia? Stupenda. Perché è grassa, no? Perché è grassa, certo. E qual è la parte di maiale più adatta per essere cotta? Ma la pluma o il capocollo sono i miei tagli preferiti. Voglio tornare a Mancini per chiedere il segreto del carbone. È importante il carbone, la scelta del carbone, cioè avere una certa, diciamo, sì, esperienza sull'utilizzo del carbone. Sì, sì, sì, naturalmente anche il tipo di legno da utilizzare, sì, è molto importante, sì, sì. Lei che tipo di legno usa? Allora, per quanto riguarda il legno, io adesso non lo sto usando perché naturalmente abbiamo messo il grigliato in vapor, sì, quindi non uso. Però per quanto riguarda le cotture fatte bene di griglia, c'è bisogno del carbone. Quindi carbone, come ci ha detto la Soncini, c'è sempre un fornitore sì, che dura negli anni, insomma, un fornitore sì, sicuro. Sì, perché... sì, è quello sì. Minutelli, lei il carbone? Il carbone è un carbone argentino, di una pezzatura grossa, e mi è assolutamente d'aiuto alla legna che utilizzo, che prediligo la quercia come legno. Quindi lei lo fa venire dall'Argentina? Certo, sono gli importatori su Brescia specializzati. Ah, forse è lo stesso della Soncini, perché anche lei ci ha detto che ha il fornitore da Brescia, quindi abbiamo scoperto. Abbiamo scoperto un segreto. Bene, grazie a Massimo Minutelli della Griglia di Varrone e a Vito Mancini, ristorante Tuccino di Polignano a Mare. Linea all'energia, torneremo fra poco. 800 24 0024. Chi vuole intervenire magari mentre sta cucinando. State ascoltando un programma offerto da Formaggio Gran Moravia, il più buono, il più conveniente, ora anche in fette. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Eccoci di nuovo tra griglia soprattutto, ma poi vedremo fra poco anche il barbecue, cercheremo di capire le differenze. Molti ci chiedono appunto questa sostanziale differenza tra questi due sistemi di cottura e saremo pronti, diciamo, nell'ultimo quarto a spiegare molte cose dal punto di vista tecnico. Ma ora sentiamo Franco dalla provincia di Milano. Buongiorno Franco. Sì, buongiorno a tutti. Dicevo semplicemente che è un assassino quello che mette il succo di limone nelle varie grigliette, sia che si tratta di pesce che di carne. Cioè, comunque il limone è un acido. Va bene la misura in cui il pesce è fetido, perché piuttosto che sentire un pesce fetido, preferisco sentire il succo del limone, che secondo me va relegato alla limonata. In ogni caso, quando faccio io le mie marinate di crudité, dato che il pesce ha un gusto delicato, il pesce crudo, al limite prendo la buccia del limone, ma magari meglio se verde, e spremo l'essenza della fragranza del limone. Ma il succo del limone veramente è da condannare, cioè, quindi non si mette mai, assolutamente. Lo mettevano probabilmente i navigatori una volta quando pescavano, e il limone se lo dovevano portare dietro, lo spremevano dentro nell'intingolo, giusto perché comunque c'era la mancanza di vitamina C che dovevano combattere lo scorbuto. Infatti il San Murillo, che non so se lo sapete, è l'intingolo base dei siciliani, che va messo nelle grigliate di carne o di pesce. In pratica c'è dentro olio, origano, aglio, tutti beni non deperibili. E storicamente c'è dentro anche un po' di succo di limone, ma perché? Perché appunto chi andava fuori a fare le pesche per tanto tempo si portava i limoni, spremeva dentro un po' di succo proprio per combattere lo scorbuto. Ma il limone è micidiale. Bene, è daremo, acido. Caro Franco, gli daremo l'ergastolo, non si preoccupi, gli daremo l'ergastolo, ma lo daremo anche a chi usa il limone quando serve la carne, nei ristoranti capita ancora spesso, e oppure quando serve anche il maiale, non so perché c'è questa abitudine, forse deriva proprio dal fatto che un tempo quando c'erano dei saporacci da aggiustare, forse il limone l'aggiustava, e come. Ma sentiamo Stefano Bartolini di Cesenatico, proprietario di una serie di ristoranti, cosa ne pensa lui, visto che fa grandi grigliate di pesce del limone, dell'aggiunta di limone. Bartolini, anche lei lo condanna? Gli diamo l'ergastolo? Buongiorno, ma semplicemente io che dare l'ergastolo l'ho scritto sui miei menù, soprattutto per quanto riguarda anche il fritto, noi facciamo anche molto fritto a parte le grigliate, e io l'ho scritto appositamente, cerchiamo di darvi un fritto o una grigliata croccante, non rovinatecelo col limone, e non servo mai il limone, quindi sono molto d'accordo con quello che è stato detto prima, limone mai. E che cosa? Mai. Si può mettere qualcosa sulla griglia di limone, di pesce, oppure bisogna proprio lasciarlo così com'è, come esce dalla griglia? Da come viene fatto da noi tradizionalmente, a Cesenatico, certo, in Romagna, ha già un suo condimento. Noi si mette nel padellone un po' di olio extravergine, pepe, sale grosso, non sale fino, e una nuance di pane grattato che serve un attimino a legare. Il pesce si fa strascinare su questo padellone e si mette sulla griglia. Quando esce è già morbido di suo, non ci dovrebbe essere nessuna aggiunta se non proprio un filo di olio extravergine d'oliva crudo, insomma, ma a seconda se il pesce ha una pestatura un po' più grossa o meno. Senta Stefano, la grigliata alla romagnola, cioè dell'Adriatico, è famosa, è molto famosa, si parla sempre di grigliata. Cosa ci si mette dentro? Quali pesci? Bisogna fare un attimino di distinzione fra quello che era la tradizione dei marinai, dei pescherecci e delle case attorno al porto dove sono io adesso, e quello che è poi diventato una grigliata più commerciale. Io nel mio locale ho delle bellissime foto della fine degli anni 60, dove ci sono ritratti i pescatori che si fanno le grigliate sulla barca o sulla banchina del porto, ed è sempre, quasi sempre, pesce azzurro, sgomberi, seppie, canocchie, saraghina, alici, massoline piccole, quindi quel pesce che per povertà di mercato, non avendo mercato, veniva poi consumato da chi lo pescava, ed era poi di fatto il pesce più saporito in assoluto. Adesso diciamo l'offerta si è allargata, quindi ci si mettono di spiedini, di calamari o di gamberi, diciamo che è un'innovazione, insomma. Si mettono le sogliolette, quelle piccole di reti, le piccoline nostre, quelle che si pescano dentro le tre miglia, sono sempre state un prodotto tipico della grigliata. Dopo poi sono aggiunti i rombi, le code di rospo, il San Pietro, una seconda generazione, diciamo così. Però il pesce piccolo, quello più saporito, è sempre stato la grigliata dei marinai. Insomma. Bene, vai con liscio, insomma. Bene, rimanga con noi Bartolini. Sentiamo Lucio da Aosta, un radioascoltatore. Buongiorno Lucio. Buongiorno. Prego. Ho sentito il signor Minutelli, se non sbaglio, che parlava di importo del carbone dell'Argentina, però parlava anche di legno di quercia, di ciliegio. Ora la domanda è, questi carboni che importa sono fatti di quercia o di ciliegio, oppure usa unitamente il legno fresco di quercia e ciliegio insieme al carbone? Beh, Lucio, sì, non abbiamo più Minutelli, ma io credo che non è che importi, credo che abbia detto che ha un distributore, mi sembra di capire, a Brescia, che gli fornisce questo. Comunque la sua domanda, se si possono mescolare carboni con legno, lo chiediamo a un esperto, lo chiediamo a Cristiano Tomei, del ristorante, chef del ristorante L'Imbuto di Luca, nonché giudice al Re della Griglia. Buongiorno Tomei. Buongiorno, come va? Bene, tutto bene, bene. A Luca tutto bene, c'è il bel tempo? Sì, a Luca c'è bel tempo, ma io sono a Taggia ora. Ecco, Tomei, allora, secondo lei va aggiunto, cioè il carbone e si aggiunge anche legno, oppure bisogna ben distinguere? Ma guardi, io sarò molto, molto sintetico, per me la griglia è legna, soprattutto olivo, perché da noi in Toscana è una religione la legna d'olivo, quindi... ha un potere incredibile, soprattutto sulla famosa fiorentina, quindi io sono più per la legna. Beh, la brace di legna, credo che sia completamente d'accordo anche il mio amico Dario Cecchini, che quando parla di bistecca dice sempre legno di olivo. Senta Tomei, con lei volevo parlare anche di questa trasmissione che avete fatto, lei era giudice appunto di questa trasmissione, ma qual è il livello dei personaggi che si presentavano, il livello di cultura della griglia? Ma il livello di cultura era abbastanza alto, anche se è un livello di cultura che è molto annaffiato dalla cultura del barbecue americano. Non me ne vogliano gli appassionati del barbecue americano. È chiaro che io sono un cuoco toscano per giunta, quindi io sono più per la griglia all'italiana e quindi per la cottura diretta e per un rapporto un pochino più primordiale e meno tecnicistico del calore, della gestione del calore. Senta Tomei, abbiamo parlato di bistecca, ma volevo chiedere quanta frollatura, quanto tempo deve essere frollata, per quanto tempo deve essere frollata la bistecca secondo lei, una fiorentina? Questa è una domanda tra bocchetto, lo sa anche lei, no? Perché dipende dalla razza che si usa. La chianina ha bisogno di una frollatura più lunga, perché la chianina comunque è un animale che non è nato per la carne, quindi deve frollare un pochino di più. Altre carni, tipo la carne piemontese, il fassone, ha bisogno di meno frollatura. Poi le filosofie sono le più diverse, le più disparate. L'importante poi è che ci sia il risultato. E la fiorentina, niente olio, quasi niente sale alla fine, perché comunque si condisce con il suo grasso e è una carne molto saporita quando la qualità è super. È vero che uno degli errori più comuni che si commettono cuocendo la fiorentina è cuocere solo al centro? Sì, no, di errori sulla fiorentina ce ne sono tanti. Intanto l'altezza della carne, e poi comunque la fiorentina ha bisogno di attenzione nella gestione del calore, e nella gestione e nella scelta della legna con la quale si fa la brace. Sono gesti molto semplici quelli della fiorentina, basta seguirli però. L'altezza va bene 4 centimetri? È un po' pochino per noi toscani, bene. 4 centimetri. Andiamo. Ci adattiamo, via, a volte ci adattiamo. L'importante è che ci sia anche quel momento che la carne si mette in piedi, o come si dice alla toscana, perritto, sì, dalla parte dell'osso, e in quel momento il grasso si scioglie e condisce il resto della carne, la parte magra, e quello è un passaggio fondamentale per la fiorentina. E poi dopo, naturalmente, quando è cotta, il riposo, perché altrimenti poi i succhi se ne vanno tutti fuori quando la tagliamo. E qua è guai, ripeto, a mettere il sale prima, durante, e tantomeno l'olio per condirla. Bene, fiorentina di femmina però ci vuole, eh? Comunque andiamo, poi potremmo dire anche di quale costa. Sentiamo Bruno da Brescia, un radioascoltatore. Buongiorno Bruno. Buongiorno a voi e buon appetito. Mi dica. Ma io volevo dire una cosa, voi parlate di carbone di legna, che naturalmente è il meglio, però io devo dire che da quando ho comprato un maledetto barbecue americano, io lo uso ogni sera, cioè certamente la qualità non sarà la stessa, però voglio dire, l'utilizzo si moltiplica, eh. Ma Bruno, ma cosa intende? Non ho capito, cioè lei lo usa ogni sera e quindi dice, lo ritiene l'aspetto migliore, insomma. Sì. Dico semplicemente che è la facilità d'uso, no? Cioè tu arrivi a casa, accendi è pronto dopo 5-10 minuti, no? Quindi si utilizza molto di più, soprattutto d'estate, quando si può cucinare fuori, si utilizza per le verdure, per le carni, per il pesce. Quindi, e l'ultima cosa che voglio dire, che ho imparato da un sardo, è la spigola sotto sale, che invece di metterla in forno, si cucina sul barbecue, cioè si libera un po' da sale e si cucina alla griglia. Viene una cosa spettacolare. Senta Bruno, lei oggi sta cucinando? No, io sono da un amico che cucina pure lui. Oggi sono andato a vedere la Mille Miglia, perché queste macchine meravigliose. Ma col barbecue? Sta cucinando col barbecue? Oppure sì, anche il suo amico sta cucinando col barbecue. Quindi siete una congrega, insomma, di appassionati del barbecue, mi sembra di capire. Assolutamente sì, e grazie del vostro aiuto e dei suggerimenti fantastici. Bene, io la ringrazio. Veloce, Vittorio dalla provincia di Latina. Buongiorno Vittorio. Buongiorno, buongiorno. Io ascolto tutte le domeniche la vostra trasmissione. Bene. E ogni tanto faccio qualche domanda. Vorrei sapere perché sento parlare sempre del sale grosso e non di quello fino. Io con quello fino mi regolo meglio. Il grosso, quando viene una patacca grossa, come fai a sapere? Bene. Se, eh? Tomei, perché sulla carne ci vuole poi, una volta cotta, il sale grosso e non il sale fino? Ah, innanzitutto ci vuole il sale buono, okay. E quello è fondamentale. Non è detto che si debba usare dei sali, come vanno tanto di moda ora, particolari, che vengono da località amene del mondo. In Italia ci sono sali meravigliosi, e il sale grosso comunque alla fine ci dà un altro approccio, soprattutto sulla carne, cioè diventa anche un elemento di morso, di consistenza, e poi al contrario di quello che diceva il signore, è molto più facile dosarlo, anche perché, ripeto, quando la materia prima è buona, il sale va dosato con cura, non occorre usarne le grandi quantitativi. Bartolini, veloce, niente sale sul pesce, immagino. Noi un po', come dicevo prima, ne mettiamo. Sale grosso anche noi, sale che viene qui fuori casa nostra da Cervia, nelle famose di Cervia, un sale, come si dice, dolce. Un po' di sale grosso che poi nell'amalgama con l'olio si scioglie già di partenza, insomma. Io sono d'accordo col signore di prima che è più facile da usare rispetto al sale fine. Col sale fine spesso si tende ad abusarne, e invece il sale grosso, e poi dà queste cose piacevolissime, per cui un pezzo un pochettino più saporito, l'altro più sapido, e il palato trova sempre nuove sensazioni. Grazie a Stefano Bartolini e a Cristiano Tomei, ristorante L'Imbuto di Lucca e Osteria Granfitto, La Bucca, Terrazza Bartolini di Cesenatico di Bartolini. A linea alla regia, torneremo fra poco. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino. Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa roba? Ma dedico questa canzone, Che Bontà, a un radioascoltatore che continua a mandare degli sms senza senso. E caro radioascoltatore, se tu non sei interessato a mangiare col barbecue, beh, mangia altre cose. Bene, allora andiamo a parlare con un grande esperto. L'ho lasciato per ultimo perché affrontare alcuni argomenti. Il primo argomento, appunto, la differenza tra griglia e barbecue. Lo chiediamo a Gianni Guizzardi, Accademia dei Signori del Barbecue, e quindi è anche un noto importatore di barbecue e un grande esperto. Buongiorno Gianni. Buongiorno Davide. Allora Gianni, iniziamo. Che differenza c'è tra la cottura della griglia e quella del barbecue? Allora, io ho ascoltato con attenzione tutta la trasmissione e chiaramente bisognerebbe fare una grande distinzione iniziale. Sicuramente i prodotti sono differenti e gli utilizzi sono differenti, però è molto importante considerare la differenza tra l'utilizzo del professionista, quindi il ristoratore che abbiamo sentito, e l'utilizzo che può fare il dilettante appassionato finché uno vuole, però comunque non professionista. È chiaro che il barbecue è un attrezzo alternativo, forse più facile da gestire o comunque con minori errori. Tutte queste attenzioni che sentivo parlare, la temperatura della brace, la tipologia di legno che varia, serve per variare la temperatura, non per gli aromi, che quelli non ci sono mai. Tutte queste cose sono molto importanti per il professionista che può distinguere con attenzione perché è lì dedicato a quello, molto meno per il dilettante che magari non ha tempo e magari vuol fare qualcos'altro, parlare con gli amici, fare altro intanto che cucina. Ecco, voglio chiederti anche un'altra cosa. Un radioascoltatore ci scrive: da un po' di tempo utilizzo lo smoker per cuocere la carne col metodo low and slow. Di che cosa si tratta? Questa è una cosa che chiaramente americana, tipicamente si sta trasferendo piano piano verso l'Europa. È un tipo di cottura che si avvicina moltissimo a quella che nella cucina tradizionale, diciamo, all'interno della casa, non fuori, è la cucina a bassa temperatura, quindi il discorso del runner, come viene chiamato spesso, sottovuoto in forno, comunque sistemi molto moderni che stanno prendendo piede fortemente, però col grande pregio che facciamo, oltre alla cottura con simili caratteristiche, anche la finitura, cosa che invece nell'altro tipologia, cioè in queste sottovuoto, altro la finitura non c'è, quindi poi dobbiamo riprenderla e fare qualcosa di ulteriore. In più abbiamo il drenaggio dei grassi superflui, cose che invece nel sottovuoto chiaramente restano lì. Quindi questo è un po' un pregio. Ecco, io ultimamente vedo in diversi ristoranti un arnese che si chiama Green Egg. E vedo che grigliano con questo Green Egg, che mi dicono sia un retaggio dell'esercito americano. Esatto, è un retaggio della guerra del Vietnam, quindi cultura orientale. È un, chiamiamolo Kamado Grill, il Kamado è la metodologia, dopo il nome può essere uno o l'altro, certo. E come noi abbiamo anche altre tipologie, che può essere il keg, che in americano o in inglese, in americano è il barile della birra, no? Perché hanno una forma simile, sì, al barile, certo, della birra. Sì. Noi abbiamo un attrezzo di questo tipo, lo utilizziamo abitualmente, un attrezzo di questo tipo, ed è fantastico. Questi cucinano con 95% di convezione e solamente un 5% di irraggiamento. Prima proprio qualcuno, non ricordo chi, parlava dell'irraggiamento e dell'infrarosso, che è vero, quello che c'è alla griglia è 100% infrarosso, quindi è una cottura all'opposto della griglia. Con 300 grammi di carbone, io personalmente ho cucinato 14 kg di capocollo. Quindi era stato il radioascoltatore di Udine quello che era intervenuto, che aveva creato una sua griglia. Ma diciamo che ho tantissime domande. Mi chiedono anche da Fiascherino, Esther da Fiascherino mi chiede se può essere cancerogeno le cotture alla griglia, possono essere cancerogene. Qui si fa un po' confusione, nel senso che il cancerogeno, comunque il non sano, diciamo così, che forse è meglio, deriva dal fatto che bruciamo la carne. La carne bruciata fa male in qualunque modo la bruciamo, cioè se la brucio in padella, se la frigo bruciata o comunque la brucio, fa male sempre e comunque. Condivido l'opinione dell'ascoltatore di prima di Udine di preoccuparsi delle righe nere. Infatti le righe, chiamiamole righe o sering come si chiamerebbe in inglese, devono necessariamente essere colore marrone, che è il colore del caramello, perché è la caramellizzazione degli zuccheri della carne, quindi non devono mai essere nere. Ma per far questo c'è un modo molto semplice per ottenerla: prendiamo il grasso superfluo della bistecca o della nostra carne, quella da cottura diretta chiaramente, quindi ad alta temperatura, ungiamo con il grasso che butterò via comunque, perché se non lo butto via prima lo butterò via dopo, tolgo dalla bistecca il grasso superfluo e lo uso per ungere le griglie, ma non serve l'unto, serve abbassare la temperatura, e questo assorbe la temperatura della cresta della griglia, e quando arrivo con la mia bistecca non fa più la riga nera ma la fa marrone, e questo viene decisamente più buono. Un'ultima domanda, ho solo 30 secondi, che importanza ha il carbone o la legna sulle cotture anche al barbecue? Non vorrei deludere molti, ma la legna come vaporizzazione degli aromi e delle essenze può avere, ma è quella che in gergo viene chiamata fumicatura. Come combustibile assolutamente nessuno. Il carbone è inodore e in sapore. Quando mettevamo la brace nel letto per scaldare il letto non c'era un profumo d'arrosto sotto il letto, neanche di legno. non dà assolutamente nessun aroma alla legna, perché la brace, per meglio dire, e la legna la dà, ma la dà prima, nel momento in cui si evaporizza le fiamme se ne vanno, quelli sono gli aromi che se ne vanno, poi la brace è solo energia pura. Bene, grazie. Ti ringrazio per tutte le informazioni che ci hai dato. Io ringrazio tutti i radioascoltatori che sono intervenuti e chi anche ha ascoltato. Vi do appuntamento la prossima settimana, stessa ora, stessa radio, e una buona domenica e un buon pranzo, perché immagino che tutti in questo momento stiate o seduti a tavola oppure andate a tavola e magari con o il barbecue o la griglia. Pensate a noi. Buona giornata.